mi sembra una cosa già vista. Italy tipicamente assume molto in occasione dell'apertura, lo fece, diciamo, il caso su cui si è riflettuto a lungo è stato quello di Firenze, in cui erano garantiti, mi pare era il 2014, 120 posti, che nel giro di pochi mesi si sono ridotti a 90. Ecco, quindi questo è tipico. La cosa veramente divertente da andare a scoprire, da andare a indagare, e mi riprometto di farlo, sono le cifre dei posti di lavoro promesse per il fico, che nel giro di tutti questi anni, da quando si è iniziato a parlarne, sono essenzialmente precipitate. E adesso scopriamo da un'intervista a Tiziana Primori oggi su Repubblica che erano previsti 700 posti, quindi mentre si è abbondantemente parlato di 1500, eccetera eccetera, per cui da un lato loro dicono calo fisiologico del lavoro per i primi mesi, e questo è la strategia tipica di Italy. Dopodiché però i posti che vengono, diciamo, venduti prima di averli per ottenere consenso in città e nell'opinione pubblica sono sempre molti di più di quelli che poi vengono mantenuti. Da un lato, come dire, i sindacati si arrabbiano anche perché avevano firmato un accordo per appunto certi livelli occupazionali all'interno di Fico, dall'altro in realtà queste pratiche riguardano tutto il settore commerciale, cioè appunto magari sotto le feste natalizie si prendono più persone che poi vengono tranquillamente lasciati a casa, quindi anche l'eccellenza alimentare, così come si autoracconta, è soggetta a queste dinamiche. Ma assolutamente, ma voglio dire, dentro Fico c'è l'ufficio dell'agenzia interinale, già questo dentro, strutturalmente dentro, quindi già questo ti dice che modello di occupazione si ha in mente per questo tipo di colossi. È il modello, stesso modello di occupazione che la grande distribuzione utilizza, e utilizza in maniera sempre più abbondante, appunto Fico addirittura con l'avere all'interno un ufficio interinale in qualche modo lo mette a sistema, insomma lo rende proprio una parte strutturale, cioè lì dentro si lavora in questo modo, e su questo si immagina, no, di costruire riprese dell'occupazione e altre fantasie. Vorrei invece ragionare con te anche sull'altro pezzo, quello che sta portando alla crisi degli ipermercati. Negli Stati Uniti si dice il problema è l'e-commerce, in Italia forse il problema è diverso, hai un'idea? Ma guarda, io confesso, negli Stati Uniti non ne ho idea, però confesso che per quanto riguarda noi mi sembra improbabile che il problema sia l'e-commerce, anche se quella parte lì esiste, va monitorata, va riconosciuta anche nelle sue dinamiche, che non sono né astoriche né determinate da chissà cosa, ma sono precise scelte politiche e scelte capitale. Però non credo che il problema sia questo. Possiamo pensare, secondo me, a due elementi interessanti. Uno, il fatto che comunque i redditi sono al palo, se non addirittura in calo, da moltissimi anni. E due, che è un po' analogo a quello che accade con l'apertura domenicali, cioè si era immaginato che aprendo la domenica tutti gli ipermercati, centri commerciali e ora anche semplici supermercati, avrebbe questa cosa moltiplicato gli acquisti. Non è vero, semplicemente la gente ha distribuito i propri acquisti su 7 giorni anziché su 6. La stessa cosa, forse in qualche misura, avviene anche con gli ipermercati, cioè moltiplicando i punti vendita siamo talmente pieni di piccoli supermercati che è ovvio che questa cosa qui porta via una quota di consumo ai centri commerciali. Quindi mi sembra, come dire, qualcosa che è evidente, che è strutturale nella gestione iperliberale dell'economia, o meglio nell'abbandono di una programmazione sui punti vendita, sulle licenze eccetera eccetera, regalino delle leggi Bersani and Company. Sul versante di un aumento della consapevolezza dei cittadini di volere anche cambiare un modello socio-economico, pensi che ancora sia una questione irrilevante? Ma sì, non penso sinceramente che questa cosa faccia ancora massa, anzi diciamo che su questo c'è un'altra riflessione da aprire, cioè il mondo, diciamo, dei mercati contadini, dei produttori che vendono eccetera eccetera, è molto importante, però dalla classe, da chi amministra, dalla classe politica, viene giocato più in chiave di folklore o di attrattiva per il turismo che in chiave di approvvigionamento di cibo, e quindi questo, come dire, mi sembra che ne smonti molte potenzialità. potenzialità. Il problema, la sfida dei nuovi movimenti contadini era quella di tornare ad approvvigionare le città del cibo. Il modo in cui questa cosa è stata o viene, si tenta il mondo politico di sussumerla, è invece quella di fare dei mercatini folcloristici con tutto il finger food e altre stupidaggini per attrarre turisti. Ecco, tra queste due cose c'è un'enorme differenza e marcarla sempre secondo me è importante, perché altrimenti rischiamo di confonderci.